Benvenuti al secondo episodio post morte. Ovviamente al secondo episodio siamo riusciti a trovare un nome piuttosto adeguato, del Focolare Elettrico, il nostro podcast che parla di videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E io sono Luca. Non ero sicuro se mi presentassi. No, prima, ragione, ti ho dato un po'. Ho fatto la pausa. Potevo passarti il microfono, effettivamente, perché. Però sì, in effetti qui con noi c'è anche. Non anche questa volta suona male, nel senso, ancora una volta con noi, sempre apprezzato, apprezzatissimo ospite, Luca. Che, grazie mille. Come dire, stasera parlerà con noi di una rielaborazione, oserei dire, di un'espansione, forse di un DLC, di un argomento che abbiamo già trattato in precedenza. Ma andiamo con ordine. Quindi, Jacopo, che cosa hai giocato dall'altro ieri? No, dai, cioè... basta, stiamo registrando gli episodi abbastanza ravvicinati, quindi... probabilmente noi non avremo molto da raccontare, ma potremmo chiedere a Luca che cosa ha giocato. Halo Infinite di nuovo. Giustamente è uscita anche per lui la campagna. Però immagino che nel lag tra le precedenti puntate anche qualcuno di voi abbia parlato di Halo Infinite. Assolutamente, ma noi dobbiamo parlare di quello che giochiamo noi, quindi tu sei un ospite che non si sente da un po', devi aggiornare gli ascoltatori su che cosa, ti sei interessato ultimamente. Ho omesso quello a cui ho davvero giocato gli ultimi giorni, è quello su cui stiamo facendo la puntata, diciamo. Beh, che quello lo tieni per ultimo per poi ricollegarci al tema principale, ovviamente. Esatto. Però sì, ultimamente ho appena uscito appunto Halo Infinite, ho fatto la campagna, come tu hai ben notato, Marco, in una run di 23-24 ore, non lo so. E nel frattempo ti sei lasciato, hai detto addio alla tua famiglia e poi hai fatto la run di Halo Infinite. Ci sta, esatto. E riempivo con delle TFT, giusto? Ricordiamo tutti il livello Diamond TFT. Su TFT. Prima, adesso ci riproviamo a ritornarci. Diciamo adesso. Andiamo anche a uno storico. Luca per noi è sempre stato il sensei, il maestro della TFT, colui che riesce a vedere la matrice dentro la quale si muovono i campioni. Questa peccato che fosse una matrice esagonale, no? Esatto. In che senso? Non lo so, c'è un termine per dire una matrice con elementi mancanti in informatica, pensavo qualcosa del genere. Una matrice con elementi mancanti, tipo con NA. Quando dovremo calcolare gli autovalori e gli autovettori di questa matrice? Oh mio Dio! Ne riparleremo. Nel frattempo... questo è diventato un podcast di matematica, improvvisamente. Ma nel frattempo direi che se Jacopo non ha notizie che sono successe di particolare... Precisamente no! Dall'altro ieri a oggi... Oddio, in realtà con Activision tutto è possibile, abbiamo cose in evoluzione... Lo so, in realtà non è già uscito il gioco. Ok, una notizia ce l'ho, fermi. Avevano messo Final Fantasy VII Remake su Epic Games Store a 70 euro. Mm-hmm. Ovviamente tutta la community PC si è rivoltata perché 70 euro un gioco per PC è ancora alto come prezzo. Oggi è uscito, costa 80 euro. Cioè avevano pure tolto il prezzo, quindi tutti avevano pensato vabbè l'hanno tolto perché abbasseranno, lo allineeranno a 60, no? Che è il nuovo standard. Prima era 50, adesso 60, invece no, ci sono allineati la PlayStation 5. Se ci sono giocatori che hanno difficoltà a trovare i fondi per comprare Final Fantasy VII, possono sempre giocare al nuovo gioco di Peter Molyneux, che li vede già in veste di praticamente, come si dice, agenti immobiliari, dove possono comprare terre e proprietà nel suo mondo virtuale grazie alle NFT. Quindi, c'era giusto per ricordare al nostro pubblico, Peter Molyneux fa un po' la merda. E... scusate, sono un po' stanco stasera, non so quanto sia stata una buona idea. No. Oh no, Marco Stanco è... Quindi si parla, partiranno battute indecenti stasera, per fortuna c'è Luca. E altre notizie, hanno vinto la causa contro... No, hanno vinto, scusate, hanno accettato, diciamo, il patteggiamento, no? Si sono accordati la causa contro CD Projekt Red da parte degli azionisti e gli hanno dato circa 2 milioni, forse 1.8 milioni di dollari come, diciamo... contentino per dire scusate, così soldi. Eh beh, dovranno anche loro pur mangiare, d'altronde, no? Esatto. E Luca, tu hai qualche notizia che vuoi condividere con i nostri ascoltatori? Qualcosa che non so, sentito, scoperto di recente, anche solo? Beh, no, però mi piace molto questa parte in cui fate la rassegna stampa all'inizio. Un commento su questa cosa. Grazie, fin troppo grazie. Gentile. Anche solo chiamarla rassegna stampa penso sia un termine neanche sopravvalutato, ma proprio sbagliato. Ma direi che grazie ancora comunque a Luca. È vero, da un'introduzione dinamica. Bello. Ok. Sono un poi posso confermare ai telespettatori che non se la sono preparati, cioè nel senso noi siamo entrati in chiamata prima di registrare, non era preparata questa cosa. No, questa è contro la magia della diretta. Esatto. Questa è la magia della diretta. Questa è la, come si dice, la sì la magia, chiamiamola la magia della diretta. Esatto. Quindi, come potrete forse aver intuito dal titolo della puntata, che non sappiamo ancora qual è quello di quest'oggi, ma ce ne faremo venire in mente uno che sia adeguato all'argomento. Quest'oggi parleremo di, come diceva appunto, visto che la presenza di Luca è un DLC a un argomento che abbiamo parlato in precedenza, di cui abbiamo parlato in precedenza, e questo argomento in particolare è Outer Wilds, oggi parleremo proprio del DLC di Outer Wilds, ovvero... Se vuoi annunciarlo tu, Luca. Se sbaglio il coso mi ammazzate. Penso sia Echoes of the Eye, no? Echoes of the Eye, assolutamente. Ovviamente ho fatto se vuoi annunciarlo tu, Luca, perché io non me lo stavo ricordando in questo momento. Sta avendo un attimo di... No, vabbè. Battute sardoniche a parte. Parliamo oggi del DLC, Echoes of the Eyes. Che è stato un po' un fulmine a ciel sereno, no? Se non nessuno si aspettava, o sbaglio Jacopo, nessuno si aspettava tanto un DLC da un gioco generalmente considerato completo come Outer Wilds. Perché loro nel trailer iniziale, quando hanno presentato il gioco, non mi ricordo qual era l'occasione, se era qualche festival tipo Summer Game Fest o qualcosa del genere, quando hanno presentato DLC hanno detto... Voi potreste forse dire che, ma come fai a fare un DLC di un gioco così, diciamo, autocontenuto, no? Così completo e diciamo, anche difficile da aprire, no? È abbastanza, come dire, ripulito a tal punto che sai quando vai a, come dire, sigillare alla perfezione un meccanismo, una macchina, poi dopo riaprirla per aggiungerci altri pezzi risulta comunque un po' difficile. Era un po' questo il caso, penso che sto cercando di dire. Esatto. E loro hanno dato tutta risposta, sono rimasti in silenzio per circa 5 secondi. Ma direi che la risposta alla fine l'hanno data, e che risposta oserei dire a questo punto? Da dove vogliamo partire, Jacopo? Vogliamo fare un'infarinatura o non facciamo spoiler? O annunciamo che ci saranno spoiler? No, esatto, cioè ho fatto il meme prima per Marco, gli ho mandato un meme di SpongeBob, potremmo parlare di questo DLC per altri 2000 anni, perché diciamo già con il gioco principale abbiamo perso penso un'ora, un'ora e mezza di puntata. Aspetta che vado a vedere quanto durava la puntata. Cioè... Non ha senso cercare di girarci intorno, andiamo al punto. Se non avete giocato Outer Wilds, andate a giocarlo immediatamente. Se non avete giocato DLC, vi consiglio di farlo. È possibile giocarlo durante la campagna principale, durante il gioco principale. Secondo me è abbastanza bello anche da solo, nel senso se... se, non, se volete giocarlo prima senza e poi comprarlo dopo, va bene lo stesso, cioè nel senso non è necessario fare tutto insieme. La puntata di Outer Wilds comunque durava 2 ore e 9 minuti, quindi perfetto. Quindi dai, per ritornare un po', facciamo un attimo mente locale, non per diciamo venderlo, ma solamente per inserirci noi nel contesto. Outer Wilds è un gioco di qualche anno fa, mi pare del 2018. Mm-hmm. In realtà è nato 5 anni prima da un'idea di, diciamo, accademica, non so se era un lavoro di tesi o qualcosa del genere, di alcuni studenti che per 5 anni hanno lavorato a questo, a questa specie di... 2019, infatti, guardavo... No, 2019, ok. Vabbè, comunque, sì, la versione, diciamo, finale, la versione attuale, quella completa che è uscita ora, è nata da un prototipo molto vecchio di anni e anni prima, però il concetto era lo stesso, ovvero un sistema solare simulato, con questi pianeti che hanno ogni pianeta ha una caratteristica particolare, si può viaggiare liberamente fra pianeti, ma c'è questa cosa di un loop temporale ogni 22 minuti che resetta la timeline, diciamo, e ti riporta all'inizio di questo loop. Ovviamente ci sono tante cose sotto, civiltà estinte, colpi di scena, segreti, meccaniche strane, eccetera. Alla fine si può dire che fosse un gioco su sulla morte, sulla rinascita, sulla la morte dell'universo, alla fine anche sulla... È un gioco molto filosofico, dite, molto filosofico, sì, sulla, come ci si confronta con la finalità, no? Della vita, sì, dell'esistenza, tutto quanto. Ognuno di noi aveva portato la sua esperienza anche emotiva, no? Avevamo detto, ah, io ho sentito molto il rimpianto, ho sentito molto questo... questa eccitazione, questa angoscia, questa cosa di non sapere cosa c'era dopo. Poi il buon Luca qui ha portato anche la parte più di fisico e di magari giocatore in cerca di una esperienza nuova. E quindi c'era il meme che non esistono giochi nuovi, non esistono cose nuove inventate negli ultimi 20 anni, purtroppo invece... Purtroppo era sbagliato. Era sbagliato. E quindi tutti quanti eravamo contenti, a posto, abbiamo fatto la puntata, abbiamo giocato questo gioco bellissimo, abbiamo parlato, così. Giusto, perché in effetti è stato annunciato dopo che noi abbiamo fatto la puntata, quindi non sapevamo nemmeno, cioè proprio anche noi pensavamo di aver chiuso, almeno di aver finito di parlare di Outer Wilds, e invece ci siamo ancora qui. E quindi questo, insomma, ora, appunto, visto che era questo gioco così ben... collegato, che appunto una cosa che dicevo spesso a Luca quando si bloccava, e che gli ho detto anche per questo DLC, è tipo di andare altre parti, perché da altre parti magari c'erano soluzioni a problemi che lo stavano bloccando. E quindi è proprio perché il gioco era così interconnesso, così come dire, ben strutturato, ben collegato, diciamo, che noi pensavamo, ma come cazzo fai a espandere un gioco del genere? Cioè, come fai a... cosa c'è rimasto di non esplorato? Cosa c'è che poi... dove lo aggiungi? Cosa fai? Cioè, come fai? E alla fine hanno risposto, ovvero che... se ne sono sbattuti il cazzo, nel senso che... hanno aggiunto questo nuovo... vabbè, andiamo con... andiamo per... diciamo... tempo. Con ordine. Andiamo con ordine. Marco. Vai. O Luca, come si presenta questo DLC? Come ci si arriva, no? Cioè, come... dov'è? come ci si gioca a questo DLC? Posso parlare del gioco, diciamo? Sì, sì, dai, spoiler, okay, da ora in poi spoiler, okay, per il DLC. Abbiamo avvisati, non l'avete ancora... Interrompete qui se non avete giocato il DLC, giusto? Vai, pausa, sì, finite il gioco e tornate a sentire. E, allora, cosa succede? Diciamo, in questo sistema solare, dove appunto ci sono tutti i pianeti in orbita, c'è una cometa e quant'altro, a un certo punto inizia a esserci un indizio di un altro elemento, e questo indizio viene un po' da una sonda che è stata lanciata in un'orbita ortogonale rispetto a quelle di tutti, diciamo, i planetoidi che stanno nel sistema. E questo indizio, diciamo, è che questa sonda ha rilevato qualcosa di anomalo. E quindi da qui si inizia un po' a investigare su cosa realmente sia. Quello che si scopre, insomma, è che si guardano delle fotografie di questo satellite che ha una determinata angolazione, e si vede che a un certo punto appare un'ombra che, ecco, per chi ha finito il gioco, per chi ha un po' esplorato l'universo, che inizia a contare i pianeti, trova un oggetto che non piace a nessuno. Io ho fatto così, cioè, nel senso, sì, io ho detto, no, questo è quel pianeta, questo è quel pianeta, e questa cosa non saprei cosa sia. E quindi, diciamo, quello che si fa, e questa è in realtà una cosa che mi ha consigliato Jacopo dopo che ho visto questa cosa, e si insegue il satellite, si vede a che angolazione ha preso quella foto, e appare effettivamente questo nuovo oggetto. E a questo punto... Anche io ero un attimo incredulo, perché effettivamente... è la prima cosa che mi è venuta in mente, però mi sembrava una cosa talmente assurda da fare in un videogioco fino a questo punto della mia esistenza, che ma mi fai veramente inseguire un satellite per mettermi nell'angolazione? Ma io ti adoro, ma io esatto. Mi spoglio nudo direttamente, ma... In realtà per me questa cosa è stata cancrosissima, l'ho dovuto fare tipo 3 volte prima di capire. Sì, no, è stato difficile, ma allo stesso tempo una di quelle cose che ti fa dire... che per me è stato dire wow, anche quello, non so, magari so io che sto esagerando, come faccio di solito, però non so, è perché sì, era, non era di certo una cosa, come dire, forse era anche un po' quella, era tutta la sensazione di stare un po' hackerando l'universo, no? Mettiamola così, non saprei come spiegarla meglio, quella è stata per quella sensazione per me, poi le opinioni variano. A me è piaciuto come cosa, volevo solo dire questo. No, io mi sono sentito troppo, oh mio Dio, che cazzo è, tipo, 2000 nello spazio, quando vedi l'ombra, oh, che cazzo è quella roba? E perché al trailer non si capiva nulla, giustamente, quindi non sapevo cosa aspettarmi. Una cosa che però, diciamo, volevo fare come nota, visto che passiamo qui, questa cosa secondo me è un po' brutta, nel senso che c'è solamente, giustamente, perché è un DLC, quindi non puoi avere 200 indizi diversi. C'è solamente un punto d'ingresso, cioè l'unico modo per capire che c'è questa cosa è questo. Non c'è cioè noi siamo abituati che in Outer Wilds, nel gioco principale, ci sono modi diversi di arrivare a una soluzione, anche di capitarci per caso. Qui capitarci per caso, cioè, è un po' complicato in realtà, sì, però, se uno, insomma, è veramente per caso. E poi qua ci sta un po' di più, perché, vabbè, uno è il DLC, quindi è arrivato dopo, e comunque si integra abbastanza bene, ma due, è anche un DLC che è proprio autocontenuto al massimo. Sì, è vero. E nello stesso tempo fatto bene come autocontenimento. Proprio è un segreto, è il segreto nell'universo che tu stai svelando in quel momento. Quasi ancora più segreto, molto più segreto di tutto quello che stavi cercando prima, quindi... ci può stare, mettiamola così. Interrompere Luca, okay. Quindi no, scusa, lasciamogli continuare la storia. Hai ragione, scusa. No, nulla, magari concluderei questo ingresso, dicendo che a questo punto Jacopo, ma l'ho trovato, ma adesso che faccio? E Jacopo mi fa, vacci dentro, vacci contro. Che, diciamo, è una delle cose logiche che Jacopo, che mi segue spesso mentre gioco, e questa espansione mi ha seguito Marco, per motivi di guida e per motivi di, se ci sono scare jump, mi piace avere qualcuno in chiamata che mi dia supporto psicologico. Sì. E insomma metto vacci dentro, e quindi tu ti lanci con l'astronave in quella direzione, e quando ti avvicini abbastanza scopri che trovi una struttura, un'astronave che ti si palesa, e quindi prima era, pensi, in un certo senso occultata, diciamo, come dire, periodo perfetto, perché è un halo. E in realtà, esatto, entrando dentro questa struttura vedi che è una sorta di forma cilindrica, e la, diciamo, il terreno calpestabile è proprio d'anello, diciamo, quindi mi ha proprio ricordato esattamente halo, perché è la superficie interna di un anello, tra l'altro, quindi proprio come halo, quella interna. Se tu ti guardi verso l'alto trovi il pavimento che troveresti camminando avanti, ecco. Altra cosa bella è che adesso, per finire questo discorso dell'esterno, Ci sono, vabbè, modi diversi di entrare, però i modi principali sono due hangar. La cosa bella che ho notato è che l'hangar, diciamo, che tu usi all'inizio, quando tu arrivi, il motivo per cui diciamo, l'astronave è oscurata, che tu arrivi da dietro, no? Cioè arrivi dalla sonda, quindi da guardando il sole, è che dall'altro lato ci sono dei pannelli, quindi è come se si stesse alimentando e stesse prendendo l'energia solare da quei pannelli, perché all'interno la luce che c'è non è reale, è artificiale, cioè sono degli schermi dentro l'anello. Quindi il motivo per cui è invisibile da un lato ma oscura il sole dall'altro è perché deve assorbire questa luce per alimentarsi all'infinito. Quindi è un sacco figo come dettaglio. Ma che figo, sì, è vero. Quindi scusa, vabbè, quindi ok, quindi entriamo in questa nave tramite questi hangar, così lasciamo la nostra astronave, perché così il DLC può diventare più interessante, se no con la astronave è troppo facile. E poi non riesci anche negli altri, vabbè, niente, anche negli altri pianeti devi camminare. No, però dico, cioè, riuscire ad entrare con la nave dentro quell'anello avrebbe reso alcune cose troppo facili. Ah, ok, capito cosa intendi. Va bene, ci può stare, sì. E quindi siamo dentro, signor Luca. Dentro questo anello. Bene, vado un po' avanti? No, non lo so. Cioè, fai una summa della storia a sto punto. Che poi allora, diciamo che il... No? Esatto, sì, no, non sapevo quanto voleste... Vabbè, però abbiamo detto che chi l'ha giocato se lo risente, chi non ha giocato se lo deve giocare, quindi... In sostanza, appunto, questo pianeta si può percorrere tutto, diciamo, con delle zattere, perché c'è una sorta di corso d'acqua che percorre tutta questo anello, insomma, nella sua parte interna. Tutta tranne, appunto, una diga che a un certo punto blocca e fa passare solo un po' d'acqua, comunque con una zattera puoi, insomma, puoi sollevarla e portarla dopo, e quindi puoi continuare a girare indefinitamente, il flusso d'acqua va in una direzione, ecco. Il punto è che, diciamo, si inizia a esplorare questa zona, ci sono delle strutture in legno, con dei simboli che non si riescono a leggere, con il lettore che si usava nel gioco principale, con il lettore di linguaggi, e si inizia a scoprire la storia di una popolazione che non era stata incontrata, che non sono i nomai, appunto. Ci sono dei ritratti in queste case di questi umanoidi con delle corna, ecco. E la, diciamo, il punto, sì, interessante... Cioè, umanoidi non troppo, sembrano un po' tipo dei gufi. Infatti... Ah, scusa, no, è vero, umanoidi perché hanno due braccia e due gambe, però... antropomorfi, diciamo, allora. Esseri antropomorfi. Gli uccelli che la community ha deciso di chiamare Aulkin, quindi... Ah... Tipo... Gufoidi, no, gufo persone. E non so, gli sviluppatori penso li chiama gli uccelli, non lo so. Gli sviluppatori hanno un nome molto più stupido. Però vabbè, Aulkin, diciamo. Esatto, quindi hanno questa... e diciamo, si inizia a scoprire un po' questo mondo, e forse un aspetto fondamentale del gioco è che non ci sono più tutte queste... Appunto, non potendole leggere, non si impara da pezzi di scritture sui muri o diciamo in giro sul pavimento, ma si trovano dei rulli di diapositive che si piantano in proiettori, si girano le diapositive e si impara da quelli. Quindi tutto il DLC vive un po' su questo aspetto visivo. A me è sembrato, adesso da un parere personale, che sia un po'... l'opposto a quello che ti succede con Solanum nella campagna principale, che lui, diciamo, tu gli cambi i simboli e lui ti dice tutto a ripetizione, poi ti si riscrive nel registro. In questo DLC invece impari proprio vedendo, e non hai il registro non avendo l'astronave, quindi fai molto riferimento alla tua memoria visiva. Ah, è vero, questo non ci avevo pensato, che c'è più bisogno di ricordarti le cose lì dentro perché non puoi tornare indietro. Che secondo me è anche un aspetto che, scusa se riprendo un attimo il filo di prima, per cui io consiglierei di giocare prima il gioco totale e poi quest'altro, perché secondo me mischiando entrambi magari ci sarebbero troppi elementi. Magari dico, faccio un pezzo di di questo DLC e poi ritorno nell'universo e scopro altre cose. Ci forse sta quello un po' che troppo, si diceva prima, è molto autocontenuto a tal punto che effettivamente se quando lo cominci ti conviene finire quelle poi o tornare al gioco prima. Il mio consiglio è, se non avete giocato ancora Outer Wilds, vabbè, prima di tutto perché siete qui, però se avete intenzione di giocarlo prima o poi e siete qua, giocate il gioco, poi quando siete sicuri che state per finirlo, cioè che avete scoperto cosa dovete fare nel finale, giocate il DLC. Cioè, tanto è abbastanza semplice, come abbiamo detto, cioè il DLC è facile capire qual è, perché appunto c'è questa stazione radio, questo satellite e questa astronave a anello. Vi invito di nuovo a smettere di ascoltare, per favore, perché e ora cominciano gli spoiler quelli veri, in realtà finora metto solo l'inizio. Beh, questo era quasi nella descrizione del DLC, praticamente. Quasi tutto nella descrizione del DLC. Scusa Luca, ti ho interrotto di nuovo. No, anzi, mi dispiace che sto facendo il monologo sulla storia. No, è giusto. Abbiamo chiesto noi, quindi dai. Ci stai a fare un favore, Lu, non è che... Ok, quindi si iniziano a scoprire aspetti uno dopo l'altro di questa civiltà e diciamo, come va completato il DLC? All'inizio non è chiarissimo, poi in sostanza si scopre che... c'è questa cassa... Oddio, non so cosa dire prima. Allora, un momento importante sicuramente è che si scopre che in determinate strutture sull'anello... Posso permettermi? Sì, vai. Allora, diciamo che il punto focale, no? Il focus, il MacGuffin del DLC, chiamatelo come volete, insomma, la parte più centrale, è la presenza di questa strana cassaforte, chiamiamola così, con tre sigilli che la chiudono, ed è il fatto che quello che c'è al suo interno sembra avere una importanza abbastanza cruciale, anche un po' per la storia del nostro protagonista, o comunque sembra essere legato a tutto quello che sta un po' succedendo. E a quel punto l'obiettivo del giocatore diventa proprio quello di capire come riuscire ad aprire quella cassaforte. Più o meno concordate sulla mia descrizione? Sì, il bello è che se hai giocato tutta quanta la storia di Outer Wilds potresti anche dirti: ma perché sto cercando di entrare in una cosa che qualcuno ci ha pregato tantissimo a chiudere a chiave tre volte? Esatto. E tanto sta per esplodere tutto. Esatto, la risposta è: tanto devo comunque morire fra 20 minuti a sto punto. A questo punto faccio una pillola. Esatto. No, penso che sia una delle cose più geniali anche quello, perché gioca su quello che fa funzionare tutto il gioco di Outer Wilds, la curiosità. Esatto. L'avevo già citato nella precedente puntata al riguardo. È un elemento che è tutto a carico del giocatore, cioè se al giocatore non gliene frega un cazzo, non funziona. Sì, infatti, tra l'altro il DLC è, come dire, opzionale al concludersi della storia principale, quindi cioè, se uno proprio lo gioca per finire la storia, basta, può anche completamente ignorarlo e andare avanti. Vero. Ma in merda, in quel caso. O se si caga troppo addosso, perché va anche detto quello, la differenza principale con il gioco base è che per questo DLC hanno voluto usare, diciamo, toni un po' più da... Horror è quasi pesante. È horror. È horror. Già hai preso un colpo a me, Luca penso abbia fatto una scappata in bagno quando all'inizio del gioco, dopo la patch che ha aggiunto gli DLC, hanno messo un messaggio per dire: questo gioco contiene, cioè questo DLC contiene, com'era che c'era scritto, tipo elementi horror, sì, che possono impressionare. Anzi, diceva addirittura che c'era l'opzione di per limitare l'impatto emotivo dell'utente, cioè proprio l'opzione, quindi quello mi ha terrorizzato e non l'ho giocato fino a qualche giorno fa, appunto. Hanno fatto bene a avvisarti, un po' perché magari lo attivavi, un po' perché così ti sei cagato ancora di più in mano. E ora sono curioso di sapere cosa comporti l'attivarlo, però. Alla fine è il nostro cervello che crea più, che fa più danni che altro. aspettativa. Vero. E quindi, diciamo, questa componente horror sta nel fatto che, diciamo, a un certo punto del gioco si scopre che addormentandosi con uno strumento in mano vicino a un caminetto di fuoco verde, con un artefatto in mano vicino a un caminetto verde, nel sonno si viaggia in un altro, in un luogo completamente diverso da quello che è l'anello, che poi si scopre essere, diciamo che si scopre essere similare al pianeta d'origine di questa razza che abitava questo anello, che ha abitato per un po' di tempo questo anello, e quindi poi l'esplorazione prosegue anche in questa nuova, in questa nuova zona di gioco. In questa nuova zona di gioco è sempre notte e diciamo esatto, nell'oscurità si nascondono alcuni di questi questi gufi insomma c'è la meccanica horror dello scappare dal nemico che ti cerca e non farti acciuffare. Penso che tanti giochi di horror abbiano anche quello, però... che alla fine di horror vero e proprio è solo una questione tutta di atmosfera, perché crea una atmosfera di ansia e terrore in questi luoghi completamente bui, con la sola luce dell'artefatto che hai trovato a farti da guida, e con queste strane creature che se ti prendono, e che quello non è che ti squartano chissà quale cliché da... ti fanno un momento indietro e poi ti soffiano nella candela, e quindi tu vieni riportato da dove eri partito. In qualche modo spengono quella fiamma verde che ti ha portato qui e tu ti risvegli. Quindi questo... Però funziona troppo bene, mannaggia. Allora, scusate, pausa. Allora, piccolo dettaglio è che questi gufi hanno anche loro un artefatto in mano con la fiammella con cui ti vedono, ma non era per questo che volevo interrompere. Il motivo per cui volevo interrompere è che, come ho rivelato a Luca a un certo punto, quando l'ha scoperto anche lui, per entrare in questo mondo, diciamo, oscuro, si può anche morire. E giustamente è la cosa che ho fatto io per prima, cioè io per un sacco di tempo... pensavo che per entrare in questo mondo io dovessi buttarmi sul fuoco. Non so perché l'ho pensato, forse perché avevo fatto un obiettivo poco prima di prendere dei danni e curarmi tante volte. Nel gioco ci sono questi obiettivi opzionali. Non lo so, però io continuavo a gettarmi sul fuoco, ho detto, boh, magari c'ho l'artefatto in mano che vedevo gli altri che ci avevano acceso con la fiamma verde, magari se mi butto nel fuoco si accende, invece morivo e mi risvegliavo di là, e quindi per me era molto più terrificante, perché quando i gufi ti prendono, se sei già morto in superficie, a volte, anzi spesso, per me quasi ogni volta, mi squartavano. Quindi non so se quell'opzione che hai messo tu, Luca, fosse per evitare queste animazioni, perché... Però non l'ho messa io, cioè io ho giocato con... Allora non so cos'altro era, perché io ogni volta che mi prendevano... Devo cercare, perché non ricordo che mi sia mai successo da me. Ora, io non è che entrassi sempre da morto, però... No, io ogni volta che mi prendevano ero morto, quindi ogni volta, all'inizio, prima che scoprissi che potevo addormentarmi, mi prendevano, mi mangiavano la testa, oppure facevano altro, insomma. Questa cosa troppo cercare. Sì, posso anche romperti le ossa, mi pare. Lo spezzarti il collo succede quando tipo arriviamo, quando hai scoperto una cosa, però ci arriviamo, adesso ci arriviamo. Giuro che il mangiarti la faccia non me lo ricordo proprio. Va bene, andiamo avanti. Quindi andando avanti, diciamo, in questo nuovo mondo ci sono le diciamo c'è la difficoltà di esplorare data da appunto dall'essere inseguito dai gufi, e diciamo tendenzialmente ci sono delle si scopre che questa cassaforte ha una stanza da cui si può accedere, diciamo, cioè diciamo che le stanze hanno quasi sempre una copia in un mondo o nell'altro, quindi hanno una stanza. Varie una struttura che è più o meno parallela, che mostra, esatto, che hanno, diciamo, se si esplora la cassaforte nell'astronave si trova, cioè diciamo, scusatemi, la campana che custodisce questo segreto dall'astronave, si scopre che la, insomma, si scopre che la cassaforte ha tre lucchetti con tre simboli diversi, e all'inizio sembra che si debbano trovare delle combinazioni. Già intorno, già esplorando prima, ci sono dei luoghi a cui si può accedere solo facendo delle combinazioni di simboli, come diciamo la cassaforte della valigia, ecco, in questo senso. E quindi lì si comincia ad esplorare l'altro mondo, si vedono altre diapositive e sembra che queste tavolozze con i simboli, ogni volta che uno prova ad aprirle vede che sono state bruciate, quindi si va a cercare sempre più a fondo per cercare questi cinque simboli da inserire, insomma, in queste combinazioni e poter a questo punto aprire la cassaforte, per arrivare alla fine a scoprire che questi simboli non servono in realtà. Però è meglio dire, sono stati accuratamente distrutti, perché volevo dire non servono nel senso che non serve a nulla, non serve che tu li trovi, tanto, diciamo, non serve cercare quello, perché e secondo me è interessante, magari uno sottovaluta questa cosa, però io avevo sempre in mente, ecco, ho il blocchetto vicino, mi preparo i simboli e alla fine quello che devi fare non è inserire, o perlomeno in una delle tre sì, c'è qualcosa di simile, però non ci sono mai questi simboli. Il bello è che i simboli ci sono, il bello è che le combinazioni esistono, quindi tu puoi rompere il gioco, nel senso che le speedrun del gioco possono, cioè i giocatori delle speedrun possono arrivare lì, mettere la combinazione perché la sanno già e poi è finito il gioco. Però non state scavare dentro al codice, se non sbaglio, tra l'altro. Esatto, cioè devi fare un bel po' di prove, mi sa. Devi fare tante prove, esatto. La cosa bella però, come dici tu, è che un giocatore normale non è che si mette lì a fare, cioè trova un modo alternativo di superare l'enigma, mettiamola così. Sì, diciamo non è la norma dei casi, ecco. Perché in realtà la meccanica è che, cioè, tu metti la combinazione non per aprire il lucchetto, quindi ogni combinazione, ognuna delle tre, in realtà ti serve per raggiungere una specie di, come chiamarlo, di totem di legno. Che se tu ci guardi attraverso in un buco puoi accendere o spegnere delle zone attraverso. Ci puoi soffiare attraverso per spegnere, o puoi puntare l'artefatto con la luce che hai in mano per accendere delle zone, letteralmente proprio delle, anche delle, è un po' come se tu facessi comparire e scomparire oggetti o intere strutture dal mondo, no? Di base, per dare un po' più di ordine agli ascoltatori, la cultura di questi alieni si basa su questa strana energia basata sulla luce, e con la luce riescono a governare tante cose all'interno della loro astronave, del loro mondo. E il concetto è quello, un po' come una fiamma di una candela, tu puoi accendere e spegnere vari oggetti per materializzarli o smaterializzarli. Esatto. Ora questa sembra molto esoterica, ma c'è comunque un fatto che ancora non stiamo dicendo, per cercare di mantenere. Esatto. Proviamo a dare un ordine alla cosa. Stiamo cercando di mantenere un minimo. Sì, scusa, qualcosa passa, sì, è vero. Diciamo che nell'astronave è tutto molto meccanico, diciamo, con la luce io attivo dei congegni, muovo delle zattere, apro delle porte. Quindi la luce. Ma la cosa, come dire, la cosa culturale, no? Il fatto di avere una vera e propria una cultura basata su questi fuochi, questa luce verde, quella c'è, quella è proprio. Esatto, sì. Sì, no, volevo introdurre che, diciamo, un po' tutto il DLC, capito, gira attorno a questo concetto della luce. Assolutamente. E quando vai nel mondo, che c'è quando l'occhio, vai, l'oscurità, scusa, non volevo interrompere. Esatto, sì, c'è l'oscurità, no, vai, prego. L'oscurità, eccetera, eccetera. Vai pure, ti lascio finire. Sì, il fatto delle proiezioni, tutto quanto ruota attorno a quello. E diciamo, quando vai nell'altro mondo, hai molto più potere, nel senso che con la luce addirittura fai apparire o sparire elementi strutturali come ponti, come cambi delle caratteristiche di strutture. E diciamo, questo spegnimento serve per raggiungere dei luoghi, che sono dei tre luoghi proibiti, che poi sono quelli che sono protetti dai goofy, insomma, quelli dove tu fai difficoltà perché loro lì non vogliono che tu entri. E diciamo sono quelli che in cui sì, vai. Vai, prego. Per fare ancora l'ultimo contesto prima di arrivare al clou, diciamo, tu durante questa esplorazione sia del mondo illuminato sia del mondo oscuro trovi un po' di informazioni su questi goofy. Ci sono alcune diapositive, come dicevi tu, come hai menzionato adesso velocemente, questa specie di, proprio di positive, quelle vecchio stile, capito? Le foto che tu metti nel proiettore e le fai una a una. Sembra slideshow, PowerPoint the game. La presentazione PowerPoint. Scopri un po' di frammenti della storia di questi Goofy. Tipo che hanno scoperto quell'occhio dell'universo perché usano più o meno lo stesso simbolo dei Nomai per rappresentarlo, e quindi hanno scoperto l'occhio dell'universo, sono arrivati lì, è successo qualcosa, hanno capito una cosa osservandolo da vicino e si sono incazzati, diciamo. Avevano tutta una religione basata su quest'occhio. Tu hai visto proprio delle chiese bruciate con questo simbolo. Hanno cominciato a bruciare anche, cose. Gli piacciono anche bruciare le cose, comunque. Esatto, mi piace molto bruciare le cose. Tutta la nave è costruita in legno e non fanno altro che bruciare roba, quindi non mi sorprende che si siano investiti. E hai altri indizi, quindi hai indizi di esperimenti fatti con questi artefatti, di cose, di questi dispositivi mandati verso l'occhio che fanno cose. Hai qualche anche indizio su... come dire, qualcosa che è successo che hanno portato in questa cassaforte che sta sotto la campana sott'acqua che diceva prima Luca. E infine, quando tu arrivi in quei luoghi con i fuochi verdi, vedi che ci sono dei cadaveri di questi Goofy intorno a questi fuochi che hanno in mano questo artefatto. Prima l'ho detto io, ma volevo chiarire che ci sono questi cadaveri intorno a questo fuoco con l'artefatto acceso. E quindi questo, diciamo, è tutto il contesto prima di arrivare in questi luoghi che speciali, diciamo, questi luoghi protetti che dicevo. Molto speciali, diciamo, perché contengono tutta la, diciamo, conoscenza che al di fuori, nel luogo luminoso, è andata distrutta, sempre per mano di questi uomini UFO. Esatto, e diciamo, è interessante che sono i tre luoghi che poi ti servono per andare come meccanica, per andare poi ad aprire la cassaforte, ma è anche nella storia senz'altro che loro li proteggano, perché proteggono la possibilità di aprire la cassaforte, ma proteggono anche quelle parti di storia che loro effettivamente, se avevano bruciato dei positivi, c'erano dei motivi, ovvero della storia, del loro passato, che loro non vogliono farti vedere. Quindi questa è una cosa che non andavano proprio fierissimi, diciamo. Non andavano, esatto. Infatti cominci a vedere le stesse diapositive di prima, ma alcune erano state bruciate dove volevano essere bruciate, diciamo. Quindi, ad esempio, si scoprono queste parti della storia, e una di queste era che, diciamo, all'inizio tu arrivi come... dalle diapositive capisci che loro hanno nostalgia di casa, essendo arrivati lì, e quindi utilizzano questo strumento. Capisci, appunto, come diceva Jacopo, che... si riesce a con questa lanterna a creare questo collegamento, costruire questa astronave. Avevano completamente distrutto il loro pianeta, quindi l'avevano tagliato, boschi e quant'altro, quindi qualcosa di cui non andavano fieri. Inoltre, questa è proprio la rivoluzione, cioè come dire, insomma, la rivelazione finale. A questo punto direi che rimane poco altro. Esatto, diciamo, allora parliamo un po' delle tre meccaniche, diciamo. In ognuna di queste, perché sono tre accessi, quindi sono tre locchetti da cassaforte, eccetera, si scopre in primo luogo che andando in giro per il pianeta ci sono dei punti in cui tu sei oscurato da una caverna, dove mentre solitamente se cadi in acqua vieni svegliato, se tu cadi dentro la caverna dove è buio, cadi in un posto, in uno spazio che è uno spazio da cui si vede la cassaforte che deve andare ad aprire, e insomma riesce a camminare sull'acqua, comincia a vedersi qualcosa di strano. Scopri questa cosa che ha appena detto Jacopo, che ha scoperto all'inizio, ovvero che se tu invece di addormentarti muori in quella stanza in cui c'è il fuoco, ottieni lo stesso effetto, quindi ritorni nel mondo, cioè vai nell'altro mondo, però è più difficile risvegliarti, chiaramente, perché sei morto. Quindi delle trappole che tu avevi incontrato lungo il cammino, ovvero queste... Si sveglia già morto come la gazzella, scusate. Esatto, si sveglia morto. Svegli freddo. Attivano nel mondo una campana che suona e sveglia chi si è addormentato, ma non può svegliare la gazzella già morta, appunto. E l'ultimo segreto, che è un po' come dire, diciamo, spiega anche meglio lega un po' tutto, lega un po' tutto e ti fa capire tutto quanto, è che in realtà questo non è il mondo da cui loro provenivano, anche perché avevi visto che era stato distrutto, ma è una simulazione che avevano creato loro, una sorta di realtà virtuale che hanno costruito, diciamo. Non è neanche questo... un mondo spirituale di spiriti, di spiritelli morti, cioè... No, è proprio... è proprio un gioco fatto con Unity, anche perché... Esatto. con i glitch, con i bug, di gente che cade e non sa dove finisce. Infatti, perché quelle grotte non erano altre che programming. Loading zone, loading esatto. screen, praticamente. Esattamente, sì, cioè devi caricare il gioco. Esattamente, loro praticamente... Sì, l'entrare morti era un po' come corrompere il salvataggio. E... No, allora, questa cosa è figa perché in realtà da questo si spiega come funziona. Cioè, non è che chi è morto non può tornare indietro perché il salvataggio è corrotto, ma è che ogni volta che tu entri stai copiando la tua coscienza dentro, diciamo, l'artefatto, dentro che poi è collegato alla simulazione. Se muori, comunque la tua coscienza viene copiata, ma si interrompe il collegamento con la tua coscienza nel tuo corpo, perché non c'è più. Quindi, diciamo, tutte quelle memorie, tutte quelle, come dire, cose che tu, di cui tu hai esperienza, diciamo, non ne ha esperienza il tuo corpo, e viceversa, il tuo corpo non può svegliarti perché non sente la campana perché è morto e quindi il collegamento è proprio spezzato. Ed è figo che comunque il registro della nave si aggiorna lo stesso, perché in realtà, diciamo, questo non so se questo me lo sono spiegato io nella lore di Outer Wilds, non è che la nave fa il loop con te, sei tu che ogni volta appena entri trascrivi tutto. Quello, cioè, è assolutamente così, è come se tu in un secondo potessi rigenerare tutto quanto il logo della nave ogni volta che parti, ogni volta che la prendi. Vabbè, comunque, Sì, non ci avevo pensato. Quindi arriviamo alla conclusione, avendo queste, diciamo, questa è sicuramente una reazione stupenda, a me è piaciuta da morire, perché insomma nel proiettore vedi proprio che questa simulazione, come in ogni gioco, non puoi simulare tutto quanto, è faticoso, magari è difficile, e quindi la tua lanterna crea proprio una bolla di simulazione al di fuori di cui ci sono solo delle... è tutto virtuale, insomma, vedi solo delle strutture di base, come dire, non ci sono colori e... bassi, LOD. Textures e tutto quanto, insomma. Esatto. E questo qui per me è stato super bello, cioè quando l'ho visto mi ha... cioè quando l'ho proprio sperimentato, sì. Hanno usato la rendering distance come esatto. io mi inchino perché veramente non so se riesco a ritrovarlo. C'era un video sul Decima Engine, che è l'engine di Horizon Zero Dawn e Death Stranding. Qui Kojima ci deve entrare comunque. Praticamente in questo video riuscivano a scollegare la telecamera con cui stavano riprendendo la scena e la telecamera a cui si appoggiava l'engine, diciamo, il motore grafico. Perché molti motori grafici moderni, anzi, anche non modernissimi, insomma, molti motori grafici, quello che fanno è ottimizzare il numero di oggetti e a volte addirittura proprio i singoli triangoli che devono considerare. Quindi quando tu inquadri una scena, in realtà... il numero di triangoli, il numero di poligoni, perché ogni cosa che vedi di solito in un gioco è fatta di poligoni, di triangoli, di semplici forme, ogni cosa che non è visibile dal punto della telecamera di solito viene lasciata lì, cioè non viene considerata. Nel caso di Unreal Engine 5 è ancora più estremo, perché loro addirittura fanno cose strane che dove... raggruppano triangoli in triangoli più grossi, texture in texture più lontane, cioè più o meno definite, cioè cose assurde, ma il concetto è che se tu ti girassi, se tu riuscissi a girarti senza girare la telecamera non vedresti nulla. E questa cosa è bellissima perché l'hanno, come diceva Marco, l'hanno integrata nel gioco, ci hanno detto se sei uno sviluppatore cane e quindi invece di mettere questa, diciamo, distanza di rendering come cono davanti alla testa del personaggio, alla testa simulata, diciamo, del personaggio della simulazione di questo mondo, lo metti come sfera intorno all'artefatto, insomma, che porti in giro, questa specie di lampada, tu puoi lasciare l'artefatto per terra, allontanarti, uscire dal raggio, insomma, di illuminazione dell'artefatto e vedere appunto cose di debug. In realtà nel gioco non, cioè in un gioco reale non vedresti quelle cose, cioè magari potresti girare intorno a cose che non vedresti bene con l'artefatto, vedere da dietro, cioè comunque non vedresti nulla in un gioco di quello che non c'è lì dentro, diciamo. Magari questa vedresti... ha ulteriore, come dire, prova che per esempio anche questi uomini gufo riescono a fare viaggi nello spazio, a costruire astronavi, ma programmare un videogioco è ancora difficile. È vero, perché tra l'altro la cosa che ho apprezzato tantissimo è che questa cosa viene giustificata nel gioco, nel senso, nel gioco, nella lore del gioco, col fatto che ci sono questi bug, questi glitch, no? Tipo che tu cadi mentre stai nella scheda di caricamento, finisci in mezzo a questi vari mondi, ci sono questi glitch e soprattutto ci sono dei ponti invisibili. cioè tu nel gioco a un certo punto devi fare dei ponti e dici sono ponti invisibili, ma perché? E non c'è una spiegazione, finché non scopri che quei ponti in realtà ci sono, cioè sono ponti che tu puoi vedere nella schermata, e quindi scopri che quello che tu stai vedendo lì è una cosa che, uno, deve esistere permanentemente perché non sei tu l'unico utente, tra virgolette, non sei l'unico giocatore in quella simulazione, no? Ci sono altri gufi che vanno in giro, quindi deve essere una cosa che è sempre permanentemente caricata, perché fisicamente deve esserci. Che poi non sia visualizzata bene così, ok, però deve esserci. Quindi, e poi soprattutto devono esserci cose che servono per debuggare. Cioè ci sono dei ponti che essenzialmente servono per accedere a zone di manutenzione o, diciamo, segrete, no? Che conoscono solamente magari gli sviluppatori o le persone, insomma, nel giro. Dei lavori. Addetti ai lavori, no? Cioè, questa cosa è stupenda. Cioè, quando ci ho pensato, quando ho realizzato, tipo, che ne so, c'erano i ponti per arrivare alla combinazione, quella lì sotto dove scopri che è una simulazione, no? Cioè... Sì. Lì, cioè, io ho perso la testa. Perché poi, non è che poi arrivi alla combinazione e la combinazione c'è, perché giustamente la combinazione funziona lì dentro, quindi devono bruciarla perché magari qualcuno di loro potrebbe ribellarsi e leggerla, e quindi deve essere bruciata anche lì dentro. Quindi secondo me l'hanno portata lì intera, forse, e poi l'hanno bruciata lì. La combinazione, quando si sono resi conto che era troppo rischioso tenerla. Invece le diapositive no, cioè le diapositive sono rimaste per avere la possibilità di come posso dire, o mantenere la loro memoria accesa, cioè per il futuro, o magari per istruire, non so, qualcuno. Non mi è ben chiaro, chiarissimo, perché le diapositive siano integre nel mondo oscuro, sinceramente. Secondo me anche lì ci si può leggere, come dire, quello che è un po' forse anche il tema di tutto il DLC, cioè un loro desiderio di questo popolo di non essere completamente dimenticato, comunque, come dire, cercare di sopravvivere, di lasciare un loro traccia del loro passaggio, no? Perché alla fine, vabbè, questo già è un discorso più grande che magari ci dovremmo tenere più per la fine, ma come dicevamo all'inizio, il gioco è tutta una grande riflessione su il tema della finalità, della morte, della fine, no? E ci si chiedeva che cosa si poteva esplorare ancora di questo argomento. E magari un altro punto di vista. Magari qualcuno reagisce in un certo modo quando, come dire, ha la coscienza di... del fatto che sta per succedere qualcosa, altre forme viventi, altre culture, altri popoli possono reagire in un altro. Per esempio, cercare di creare un mondo virtuale in cui salvare perennemente un'immagine della loro esistenza. Anche perché va detto che un'altra particolarità di questa astronave era che avrebbe potuto sopravvivere, diciamo, all'esplosione del sole per viaggiare in eterno in un universo vuoto, ma in cui loro potevano ancora vivere in questa finta versione della propria casa. Quindi secondo te speravi che, cioè loro speravano di venire ricordati dopo questa esplosione? Non lo so, cioè già come erano così reticenti dall'accettare, diciamo, la loro fine, figurarsi eliminare completamente proprio la loro storia, no? Eliminare quello che avevano passato, forse anche lì... Se si sono fermati, dici, hanno cominciato a bruciare tutto in superficie... Superficie, però... ok, ma per loro, per quelli che non... Come dire, quella storia che sarebbe rimasta solo loro, che non l'avrebbe mai vista nessun altro, magari hanno detto, teniamola, no? È pur sempre la nostra storia, perché dovremmo distruggerla completamente? O perlomeno io l'avevo detta così all'inizio, quindi chi può dirlo con certezza, se certo non io. No, vabbè, ci può stare, effettivamente. Che ne pensate? E dimmi anche la vostra, perché... Per ora abbiamo parlato della prima grande rivelazione del DLC, ovvero che tutto quello che il popolo con cui si aveva a che fare in realtà erano solo praticamente i loro ricordi, i loro tra virgolette spiriti virtuali salvati in questa simulazione. E, esatto. Come dire, questo... non è una cosa da poco in una scena del genere. Magari appunto anche voi avete fatto riflessioni simili alle mie, inteso analoghe alle mie in questo caso, avete pensato a come mai si erano voluti mettere in questa specie di prigione eterna praticamente, perché alla fine anche questa è un po' una prigione, no? Piuttosto che lasciarsi, non lo so, o combattere come in Omaia, o essere più dalla parte di, tra virgolette, accettazione degli Ertian non so, sto iniziando a già parlare a vagare, stai divagando, aspettiamo, andiamo con ordine. Quindi, aperta la cassaforte, diciamo, questo lo voglio dire, le tre meccaniche sono, diciamo, le tre combinazioni corrispondono appunto alle tre meccaniche fondanti che impari, e come Outer Wilds ti ha abituato, non ti delude di nuovo, e sono cose che tu potevi fare accidentalmente in qualsiasi momento. Cioè, mentre nella prima campagna puoi già fare tutto senza aver fatto delle cose precedentemente, cioè l'ultima run non è che hai un oggetto in più, insomma, quella in cui finisci. Qui letteralmente, ma secondo me qui erano proprio proprio davvero più facili. Cioè, nel senso, io mi sono chiesto perché non ho mai lasciato la lanterna da qualche parte, e mi sono accorto che allontanandomi ci fosse... Eri così vicino tantissime volte, mi stavo sentendo male. Perché avevi paura del buio. Esatto, e poi mi sono risposto, lì c'è quella questione del buio, il fatto che tu la debba utilizzare in molti posti che ti... Oppure anche il fatto di lanciarti, di saltare sotto nella caverna, perché non farlo? Boh, cioè può succedere tutte le volte che fai... O di morire mentre... Non morire, esempio. Quello è morire. Successo. Tra l'altro, ognuno dei posti dove entri contiene una meccanica relativa all'apertura della come posso dire? Cassaforte. La cassaforte. Ma tra l'altro sono meccaniche che tu proprio devi utilizzare per arrivarci a volte. Cioè, non devi, però sì, esatto. Puoi utilizzare per arrivarci facilmente, scusami. Perché tipo la meccanica del morire, mi ha fatto arrivare molto facilmente a quello che ti dice che puoi morire. Esatto, la scalinata. Esatto. La meccanica del cadere ti può far vedere in anticipo la zona della simulazione, perché è l'altra zona accessibile, cioè visibile, diciamo. La dinamica del... come posso dire? Della simulazione ti può far accedere prima in realtà qualsiasi cosa, cioè nel senso puoi aiutarti per qualunque cosa, sì, cioè è una cosa che puoi usare già prima per accedere a quelle aree, quindi sì. Sì, è vero. Però in realtà è quella che ti permetteva anche di vedere i ponti invisibili che c'erano nella forra. Quindi... Esatto, bravo, esatto, esattamente, sì. Che è quella poi che ti dice della simulazione. Esattamente. E quindi vabbè, le meccaniche della, di queste tre meccaniche, ne serve una per ognuna di queste combinazioni, giusto? Perché quella del, della caduta serve per il, la zattera che è dall'altro lato, quella del morire serve per l'allarme che ti sveglia se ti avvicini alla, alla, al totem. Insomma, in ultima, il gioco qua, il, la battuta finale era che quelle tre combinazioni che non hai, che non hai trovato da nessuna parte, si potevano tutte aggirare tramite questa specie di hacking del loro sistema di simulazione barra gioco, utilizzando queste meccaniche che hai imparato nei vari archivi che hai esplorato. E questa, secondo me, è stata veramente la ciliegina della, sulla torta, da, come dire, da informatico a informatico, perché Madonna. Il rompere il gioco per fare il gioco, cioè, non so, sono andato ma veramente... è proprio una metafora del, del game development questo di LC, cioè è pieno di momenti wow. E anche, cioè, anche magari non sapendo questi, questi paralleli, è pieno di momenti molto belli anche visivamente, anche, cioè, giocando come un giocatore normale, tipo quando uno entra per la prima volta in anello, che di solito si entra da, da una stanza molto chiusa, la prima volta che si rompe la diga, perché questo non l'abbiamo detto, ma a un certo punto la diga esplode e fa un rumore assurdo, esatto, e arriva un'onda gigantesca che ti ho lanciato quasi il controller il primo jump scare del gioco, mi sono spaventatissimo, e fatto benissimo secondo me come cosa. Sì, vero. E... però sì, siamo arrivati al, al clou, siamo arrivati al punto di tutto questo. Per cosa era tutto questo, Luca? Dove siamo, cioè... quello che c'è dentro la cassaforte. Quindi la realtà non era una realtà, ma una simulazione. Una simulazione. E la cassaforte? E la cassaforte cosa nascondeva? Nessuno. Non è una cassaforte. Non è... è un oceano. No, scusa, è una prigione, volevo dire. E... esatto, non cosa nascondeva, ma chi nascondeva, perché uno si aspettava tante piotte, tanti danari, e invece c'era una persona, un, non una persona, scusa, ho sbagliato, un gufo, quindi che condivideva la stessa razza con loro, e qui ci si chiede, ma perché questa persona è stata incastrata qui? E lui, chiaramente, tu gli fai una domanda, e lui, come tutto il gioco ha fatto prima di lui, ti dice zitto e guarda, e ti punta un proiettore sulla faccia e ti fa vedere... Bella. Bella come risposta, mi piace. E non ti dice zitto e guarda, ovviamente, anche questo è gesticola. E quindi cosa scopri? Tu scopri che loro, appunto, avevi visto, insomma, che avevano inseguito l'occhio e che avevano in qualche modo scoperto che l'occhio avrebbe portato a, all'esplosione del sole. Però quello che avevano fatto dopo, che si avevano provato a nascondere, è che loro da quell'astronave avevano fatto partire una sorta di artiglio, una astronave che guidavano da lì, che avrebbe bloccato proprio in creando una bolla attorno l'occhio dall'emanare il segnale che poi avrebbe fatto esplodere il sole. Il prigioniero invece aveva era andato ai controlli dell'astronave e aveva liberato l'occhio, quindi insomma disattivando questa barriera. E per questo loro lo avevano catturato e messo dentro la cassaforte. E erano un po' arrabbiati. Non l'avevano presa bene. Un pochino. Cioè, praticamente l'hanno rinchiuso in una cassaforte reale. Poi l'hanno messo, questa cassaforte, vicino ad un focolare. Lui è morto nella bara dove l'hanno messo. Si è risvegliato nel mondo simulato e l'hanno rinchiuso pure lì in una cassaforte, in una prigione. Cioè, un pochino eccessivo, secondo me. Come aveva solo liberato per un attimo l'occhio, mamma mia, mi sembra... E quindi, diciamo, senti questa storia, quindi ti chiude questo ciclo, ma in più, a un certo punto tu gli racconti la tua storia. Se hai finito il gioco, diciamo, puoi dire la tua storia. Effettivamente, se non hai finito, determinate cose... Cioè, racconti di meno, racconti poco quello che sai. Le diapositive, diciamo, le immagini che si vedono variano a seconda di quanto hai scoperto. Ah, vedi, questo è curioso, non lo sapevo, esatto, bello. E ecco, quindi come dicevano loro, facciamo per esempio che tu abbia già finito la campagna principale, gli racconti tutta la tua storia, che si ricollega con il fatto che quando lui aveva liberato l'occhio, per quell'istante l'occhio aveva mandato un segnale che era stato ascoltato dai ascoltato, scusate, recepito dai Nomai, che poi erano arrivati nel sistema solare, e quindi inizia l'altra storia, diciamo, la storia che conosci dal gioco principale. Del gioco base. E qui, diciamo... Io lì ho pianto, cioè lì... C'è questa cosa non detta nel primo gioco che ho pensato tantissimo, ovvero che è una specie di soluzione, e questo è un'altra soluzione pure, al paradosso di Fermi. Il paradosso di Fermi è quello che dice che tu... Cioè il motivo... Non è possibile che noi non abbiamo ancora sentito un segnale da una forma di vita intelligente come noi, quindi l'unica soluzione è che o ci sono solo forme di vita silenziose, o quelle che non sono silenziose sono tutte morte. Quindi mettiamola così, cioè Outer Wilds dà una specie di speranza che mandare un segnale che possono sentire altre civiltà non è una cosa negativa. Io l'ho trovata commovente questa cosa, cioè ho trovato commovente questo atto di ribellione di questo gufo, di questo gufetto, che ha messo in moto una serie di circostanze per cui tu come giocatore, come personaggio, ti sei ispirato a seguire una vita da esploratore, cioè a fare l'esploratore praticamente, a scoprire cosa è successo in Omai. Ed è stato un atto di ribellione non solamente contro, come posso dire, una repressione, sai, le solite cose tipo votate Hitler, non lo so, cioè era un gruppo, bruciavano libri in questo gioco. Esatto, cioè era un gruppo di, era un popolo, come dire, reso, non acidello, però reso un po' cinico, cioè reso un po' cinico, un po' dal lato sbagliato della simulazione. Esatto, un popolo reso appunto pessimista, reso comunque non so come dire, non so la parola giusta che sto cercando, però jaded in inglese, da questa scoperta che il segnale per cui loro avevano sacrificato la loro vita in cerca appunto di questo segnale, nell'esplorazione, nella scoperta, era un segnale di qualcosa che li avrebbe uccisi tutti. Quindi questa reazione così violenta, così di vendetta a questa scoperta che gli ha un po' ribaltato la religione, era esattamente lo stesso motivo per cui non mai invece si può dire che l'hanno salvato in un certo senso, cioè no, che l'hanno salvato, che lo hanno portato alla giusta conclusione, non so come dirlo, cioè è la stessa identica cosa, non è una cosa casuale così, cioè è come se fosse una rima, no? Una poesia di due popoli, e allo stesso tempo ti dà anche una spiegazione del perché fosse così difficile da tracciare sto occhio poi nel gioco, sia da Nomai che da te. E a me ha fatto i brividi, cioè è bellissimo come finale, non so, voi che ne pensate? Secondo me è giustissimo come finale, se poi gli aggiungi anche la parte dell'effettivo finale, teso, se fosse solo quello, avrei detto che ok, interessante così, però il tutto culmina appunto nella, come dire, nell'aggiunta anche nel finale del gioco base. Per me. Okay, qual esce l'aggiunta? E qual è questa aggiunta? Ah no, ok, no, sì, lo dico io. Giustamente ho tirato fuori l'argomento. Perché? Sei tu l'unico che l'ha visto. Quindi... Come sono l'unico che l'ha visto? Io non l'ho finito ancora. Ma seriamente? No, ho solo sentito delle voci. Ok, allora vi spoilerò io in questo caso un po'. Okay. No, non so, Luca, tu volevi... No, neanche io l'ho visto ancora. Volevi finirlo o posso spoilerare a questo punto? Puoi spoilerare. Che in pratica, un po' come, diciamo, c'è la differenza tra il trovare oppure no l'ultimo Nomai sulla luna quantica, in cui, diciamo, nella canzone finale che va a riscrivere l'universo, che tu insieme ai tuoi colleghi, diciamo, dell'Outer Wilds andate a cantare, si può aggiungere, diciamo, quest'altro strumento, il piano dei Nomai, pianoforte. E allo stesso modo, se hai questo contatto con la civiltà degli uomini UFO e scopri, diciamo, un po' quello che erano, quello che sono quello che gli è successo e anche la storia di quest'ultimo sopravvissuto, diciamo, puoi trovare anche lui insieme all'ultimo Lumai alla fine di tutto, alla fine dell'universo, e anche lui porterebbe uno strumento da suonare insieme a voi. Se non sbaglio era una specie di flauto, potrei sbagliarmi, oddio, un vuoto di memoria in questo momento. E molto semplicemente, come dire, la loro esistenza non viene dimenticata, perché nel nuovo universo, oltre a quelle strane creature che ricordano insetti, appare nell'immagine proprio finale anche una creatura che tiene in mano una strana lanterna dalla luce verde. Questo era giusto per dire, infatti era anche quello, ma allora questa cosa non la sapevo, pensavo che tutti avessero poi rifinito il gioco per vedere no, se c'era una qualche differenza. E ovviamente inquietantissima tutta la sequenza, sai quella sequenza per trovare lo strumento prima della canzone? Inquietantissima, mamma mia, anche lì abbastanza da cagarsi poi, ma... Incoraggiante! Ora sicuro Luke lo farà! Ma, che dire, per questa è la conclusione, per questo che all'inizio, anche prima, quando dicevo il fatto di avere questa cultura che semplicemente vorrebbe non essere dimenticata, no? Di voler restare, penso che, come dire, sia rappresentato anche dal finale, in cui non è che il mondo venga modificato particolarmente dalla loro presenza, però semplicemente ci sono anche quelle creature con la lanterna verde, quindi è giusto per dire ci siamo anche noi. Però c'è comunque una rima, c'è un verso, un versetto che li ricorda nella poesia dell'universo. L'ultima strofa della canzone. Tra l'altro trovo anche bello e poetico il fatto che lui, sapendo questo, cioè incontrandoti e realizzando questo, è implicito quello che fa, secondo me, ma è, cioè, si suicida praticamente, no? Cioè, decide di mettere fine alla propria vita secondo i suoi termini, quindi è un po', ovviamente, a tema su quello che ha fatto, cioè non nascondere il fatto che l'universo stesse agli sgoccioli, non volendo nascondere quella verità, diciamo, scientifica dell'occhio, non ha neanche cercato di prolungare la sua vita ancora. Una volta che gli hai detto questo, una volta che gli hai raccontato la tua vita, lui decide, insomma, di pendere una zattera verso l'orizzonte, letteralmente. Poi liberato in tutti i sensi. Poi liberato in tutti i sensi, bravo, sì. E no, veramente quel personaggio non dice una parola, ma mi ha veramente sconvolto. Non mi aspettavo di Non ti ha trovare. parlato. Non dice una parola, ma ti ha parlato. Non so se tu hai avuto, perché tu l'hai finito più recentemente di noi, cioè sei quello che l'ha finito più vicino a questa puntata, pochi L'altro giorni fa. ieri, tipo. Esatto. Sì. Non so se hai avuto tempo di digerire un po' il DLC, la storia, il finale. Diciamo, non completamente, cioè alcune cose ancora ci sto ripensando, appunto, e voi mi avete anche corretto un po' nella descrizione della storia per quello, perché ancora su molte cose su cui avete messo i puntini non ci avevo neanche pensato, perché appunto risale a pochi giorni fa che l'ho finito, quindi... Poi noi l'abbiamo rivisto, cioè noi guardando te giocarci l'abbiamo rivisto entrambi una volta, capito? Quindi E c'è anche quel poi abbiamo quando io fatto. mi ossessiono e vado a cercare le spiegazioni su YouTube e cose del genere. Ma una cosa bella secondo me è che la storia più o meno è chiara, cioè per me rispetto al gioco principale è stato molto più facile capire cosa Vero? fosse successo, non Sì, so, sì, sì. pure Di per te. nuovo tutto autocontenuto, quindi ci può anche stare, era proprio un capitolo a sé No, stante. però il fatto che fosse lo slide a me ha aiutato molto. Vero. Ah, ci può stare, sì. Cioè io tipo appunto una cosa, ripensandoci dopo, adesso ho capito la storia dei Nomai tutta quanta, con quando è esplosa la cometa, così, se no durante il gioco ancora non riuscivo, facevo un po' fatica a mettere bene quando loro si erano estinti, poi cosa succedeva, se era già esploso una volta il sole o meno, cioè insomma ho avuto un po' di... E invece questa qui sì, mi è stato, diciamo, a livello macro chiaro immediatamente, poi ancora non ho fatto mai tutte le riflessioni che avete fatto voi più nel dettaglio. a livello di feelings, a livello di emozioni molto... Sì, allora, mi ha preso un po'... Sì, direi nella stessa maniera del gioco principale. Mi è piaciuto, diciamo, la cosa che mi ha trascinato molto appunto è rivedere che in questo DLC è come se fossi entrato in sintonia col gioco. Cioè, quando tu, ad esempio, quando tu mi hai detto hai finito il gioco, senza sapere cosa c'era dopo, sono andato dritto a fare quelle tre cose a cassaforte perché riconoscevo che erano le tre meccaniche a cui dovevo pensare. Tu dici, sì, ok, le risolte già le sai, però era proprio... come me l'hai detto, era come se avessi... Se anch'io avrei fatto lo stesso enigma se fossi stato programmatore, capito? Questo è stato bello. E anche il ritrovare la meccanica della diga di cui crollava, a cui accennavate prima, è bello perché ti ricorda un po' il gioco principale, perché il gioco principale, appunto, se pensate a Vuoto Fragile, pensate ai Gemelli di Cenere, gioca un po' tutto sul fai la cosa in un determinato momento perché a un certo punto puoi accedere a questo luogo, a un certo punto no, a causa dei cambiamenti, e la diga ti ricorda in questo, no? È vero, non ci avevo pensato, è anche quello del tempo, è vero. Ottima descrizione. Oddio, tra l'altro sarebbe curioso vedere cosa succede negli altri due posti che hai detto tu a 10 minuti, cioè che cosa diventa accessibile, cosa non diga crolla, la diga crolla a 13 minuti se ti interessa. Ah, 13? Pensavo fosse a 10. Vabbè. Ci sta. Loop time 13. Sì, cioè tra l'altro ora c'ho il trauma della diga perché ho passato tipo 2 ore a cercare di fare un obiettivo dove dovevi fare surf sull'onda. C'era la diga per tipo 15 secondi. Quindi vabbè, diciamo che io ti farei un'ultima domanda, Lu, che ti abbiamo già fatto. E poi Kojima? E poi no, poi se vuole dire qualcosa anche Marco, così. Oh, cioè, no. Però volevo farti questa domanda da un punto di vista fisico. Da un punto di vista fisico. Come ti è sembrato? Cioè, tu in quanto fisico e adesso anche economico? Quindi nulla di questo, cioè io ribadisco sempre che questo è tutto non vero, diciamo, non so nulla di queste cose, però dimmi, come ti è sembrato? Come ti è sembrato, insomma, meccanicamente questo DLC? Cioè, da un punto di vista finanziario, un po'... Sì, insomma, possiamo costruirlo un halo anche noi, oppure no? Guarda, ma sembra, sì, sembra abbastanza fattibile. Poi, fisico, nel senso... l'avete visto le mie entrate in astronave nello straniero? Le cocciate di testa. Sì. Allora, come sempre, questo lo dico, sia il DLC che il gioco principale, scusate, mi sconvolge come non ci siano una miriade di bug. Cioè, nel senso, ogni cosa che è coerente con la meccanica funziona. Cioè, nel senso, esempio scemo, ci sono quelle candele sulla zattera. Ti ricordi, Jacopo, tu c'eri con me. Io spengo le candele sulla zattera pensando che quella debba cadere e quella cade. Tu dici, cazzo, quello è un elemento. Vero. Ma tutto quanto tu fai, che ti può venire in mente questa cosa, secondo le regole deve funzionare così, effettivamente funziona. Cioè, secondo me, uno sottolinea questa... Cioè, diciamo, la dà per scontato perché vi vedete, sono bravi, ok, però... Le cazzo di sonde, Lu, le cazzo di sonde. Le sonde, porte. Esatto. Cioè, funziona tutto bene, quello che dovrebbe. E non è banale, considerando appunto che è un gioco che fa leva un po' su tutte queste meccaniche strane, cose che ti appaiono, cose che ti spariscono, cioè... Boh. No, è vero, è consistente, come un buon sistema fisico. Esatto. Un buon insieme di leggi fisiche. Ma perché spesso magari quando si parla di astronomia si parla o di astronomia, magari anche di futuro, futurologia, queste cose qua. Si parla di sfere di Dyson, che sono queste sfere intorno a delle stelle per prendere energia. Siamo arrivati a parlare delle stelle. Però no, volevo chiedere, siccome ci sono dei riferimenti in questo gioco, no? Cioè c'è sto coso che prende energia solare all'infinito, insomma, si autoalimenta, e è anche una stazione, cioè, rotante, circolare, tipo stile 2001 di Odissea nello spazio o anche Halo. Non so se tu sai effettivamente quanto è possibile una roba del genere? Cioè, quanto è possibile generare tipo gravità artificiale così? Cioè, generare fare una struttura del genere? Cioè, quanto è realistica una cosa del genere? Questa è la mia domanda, cioè, adesso che mi è venuta ora come curiosità, se sai qualcosa a riguardo. Allora, non so molto, anzi mi hai messo la curiosità di andarmi a riguardare qualche video così. Quello che ti posso dire è che credo serva, l'unica cosa che ti posso dire, diciamo abbastanza, di cui sono abbastanza convinto, è che serva un raggio molto più grande, cioè quello dell'astronave di Outer Wilds è un po' poco, diciamo, per far funzionare, credo. Mm-hmm. Ma l'altro nell'universo è in miniatura in Outer Wilds. Giustamente, okay, è tutto più... Esatto, sì. Quello sì. In teoria... ottimizzando l'energia che ricevi dal sole, magari funziona. Non ti so fare il conto preciso se puoi riuscire a farlo semplicemente alimentando di energia solare. Questo è interessante. Anche perché la sfera di Dyson è pensata per distanze molto più molto grandi. Minori alla... cioè no, molto più grandi rispetto a Outer Wilds, ma molto minori rispetto a dove sta l'astronave rispetto al sole. Ah, davvero? Ah, tu dici cazzo. Sì, attorno al sole ci sta. Sì. C'è anche in Halo 4 la sfera di Dyson, no, Jacopo? Più o meno, è vero. Ci sta, no? Ok, quindi diciamo che i numeri precisi ve li mettiamo in un file Excel e poi ve li metto nel, esatto, nel blog. Quindi anche tu fai file Excel a settimana. Avevo visto un video sulla sfera di Dyson, però... vabbè, questo diciamo un altro discorso, diciamo, che effettivamente non si può costruire, ma devi costruirne una... con uno sciame di satelliti, insomma, per farla funzionare. Io ho finito, Marco, non so se tu hai una domanda per Luca. Luca, che ho qualcosa da dire, da aggiungere? No, dimmi, cioè, non ti preoccupare, sì. Beh, abbiamo già detto che abbiamo tutti trovato abbastanza coerente a dire sì con il resto del gioco. Non avrei davvero di altro. Che altro chiedergli a questo punto? Tra l'altro, solo positive vibes, questo DLC. Positive vibes only per me, a parte le cacozzi e esatto, i dispiaceri. No, dico, non c'è stata quell'angoscia, oh mio Dio, sta per finire il mondo. Beh, perché già lo sapevo, però. Esatto. Sì, ecco, una domanda per Luca. Alla fine come hai fatto a scendere sul fondo della forra? Perché io non c'ero quando l'hai fatto. Sul fondo della forra... aspetta. No, mi sa sempre correndo come un disgraziato, come dicevi tu. Sì, esatto. Sì. Quindi la mia tecnica funziona. Scappa, corri nel Nemesis! Esatto, sì, no, ha funzionato quello è. Ma adesso io ho una domanda per voi. Vi è venuto in mente qualcosa guardando il gioco? Voi siete, come si dice, ideatori di molte cose. Vi è venuta in mente qualche meccanica, non che avete già così, però diciamo, però sarebbe bello sperimentare una meccanica di questo tipo. Non so, vi ha fatto venire un po' lo per ispirazione, vi è ispirato per pensare a qualcosa? Anche a livello astratto, non che dovete buttare giù il progetto. Pratico. Beh, dai Luca, l'ispirazione fugace come una donna. No, beh, io, oddio, non so se parlare di ispirazione adesso sia una buona idea per tenere la puntata corta, però posso dire, per quanto riguarda me, l'ispirazione, se così può chiamare, anche solo un minimo della creatività, non è tanto... è complicato, però per dirla in poche parole, diciamo, mi accorgo sempre di più che ormai, se non sono il seme o comunque la scintilla dell'idea, ci sono cose che ho visto, che ho letto, che ho giocato, che mi accorgo sono rimaste talmente impresse a fuoco nella mia testa, talmente... hanno avuto un tale impatto su di me che, come dicevo, magari non hanno creato, non hanno generato l'idea mentre la guardavo, mentre ci giocavo, ma che mi sorprende ogni tanto nel ritrovare poi successivamente, magari dico, ah, questa è un'idea, ma forse ci potrei aggiungere un pizzico di questo preso da questo, o magari una spruzzatina di quest'altro preso da quest'altro. E quindi no, non ho avuto ancora idee geniali o rivoluzionarie, però sento che Outer Wilds sarà uno di quei giochi un po' come alla Breath of the Wild, oppure a... Beh, adesso ovviamente non mi stanno venendo altri nomi, però... Lascerà qualcosa che recupererà in futuro. Sì, è una di quelle cose che se lo giochi e lo riesci a vedere un po' effettivamente per quello che è, ad apprezzare, ha segnato comunque, ha lasciato il segno, di sicuro tornerà fuori. Ora ovviamente, però, no. Penso che il mio prossimo progetto sarà un gioco nello spazio ambientato con... Certo. Mi ricordo una risposta simile. Una risposta simile nel senso che anche per me questo DLC come gioco principale mi ha lasciato la voglia di fare giochi che sono non basati sulla violenza, che sono basati sulla conoscenza, su conoscenze che ha il giocatore, sulla curiosità del giocatore. Ma se posso dare una risposta banale, cioè pratica, la diga mi ha fatto venire in mente, cazzo, ma perché non ci sono più giochi con acqua dinamica? Perché è difficile. Cioè, effettivamente siamo arrivati a un punto di tecnologia dove riusciamo a fare cose incredibili, cioè intere città, attori ricreati in maniera realistica, è difficile ancora farlo, virtualizzazione di poligoni, di texture, ray tracing per illuminazione, cioè ci sono tecnologie incredibili. L'acqua è ancora una cosa pesante e rara da trovare in un gioco. E la prossima rivoluzione sarà la fisica nei videogiochi, a coppa te lo dico. Questo è quello che ci dobbiamo aspettare. Sarebbe interessante fare un gioco che la utilizza in maniera un po' più profonda, un po' più realistica, o comunque simulata bene, diciamo. Però vabbè. Cavolo, sì. Cioè, è nel senso, perché tutti i giochi in cui nuoti, ad esempio, sono, no, cioè dici, non in tutti quelli l'acqua è simulata in maniera, diciamo, come dovrebbe essere? No. Decisamente non simulata, è letteralmente un volume... Se quello più simulato di tutti potrebbe essere Sea of Thieves in questo momento. Sì, vero. Anche okay. Quello. Super Mario, livelli subacquei. Esatto, quelli sono più realistici. Luca, invece tu, cosa ti ha ispirato questo gioco? Purtroppo non ho, cioè nel senso, non penso in ottica di, ah ok, potrei sviluppare, cioè potrei, questa idea potrebbe concretizzarsi in qualcosa di poi pratico in un videogioco. Sono molto ispirato alla fine della tua avventura, perché se non ricordo male c'ero anch'io e... Sì, però... Partendo proposte. Esatto, facciamo... Però diciamo appunto l'idea di creare queste... Cioè questi pezzetti di conoscenza che riesci a riunire alla fine e poi ti riconosci le cose che hai imparato, non so, proprio questa macro cosa, non la semplice, come dici, un ponte invisibile, una cosa di là. No, proprio dico il macro concetto che gira proprio attorno al gioco, l'utilizzare del vedere la conoscenza sì. In un modo completamente nuovo è stato Outer Wilds. Esatto, mi ha ispirato, mi fa pensare, cioè nel senso... Cioè, ci sono sicuramente tanti modi per esplorarla, chiaramente non è detto che sia facile, non è detto che renda denaro, quindi non so, poi... Renda denaro intendo, quindi ci investano magari grandi case, quello intendevo, non... Poi ci mandi, i resoconti trimestrali... Esatto... Adesso è nella finanza, denaro. Mi hanno bussato. Okay. Quindi Luca, mentre Jacopo risponde alla bussata della porta. O è già andato e tornato? Ah, no, sono tornato, scusate. No. Ah, scusate, no, scusa, no, come non detto, niente. Allora a posto, direi che, sto per dire, Luca, intrattieni, fai un'ultima considerazione filosofica, puoi ancora farlo, ovviamente, se lo desideri. No, no, no, ho già dato troppo oggi, diciamo. Troppa filosofia, non ti pagano. Scusate, sì, esatto, sì, sì, esatto. Purtroppo io mi sono perso l'ispirazione di Luca quando andava a rispondere alla porta, ma la recupero in registrazione. Non in audio, sì, così non la ripetiamo. Bene. Oh, per cosa mi rinvitate? Non facciamo spoiler. Non si possono fare spoiler, Luca, però... Devo giocare, se no non mi potete invitare. Quelli che hanno spoilerato letteralmente tutto il DLC. Ma... Dai, allora alla prossima puntata... Al secondo DLC di Outer Wilds. Esatto. Ci sarò, promesso. Speriamo sia prima della prossima uscita di... Sarà in realtà questo è l'unico DLC, purtroppo... Adesso scriviamo e annuncio nel secondo. Esatto. Non ci sarà assolutamente null'altro. Allora, prossima puntata spero che sia, insomma, molto presto e prima che esca il prossimo gioco di questo studio, che comunque aspettiamo con ansia e angoscia. Quella sempre, quella... quella sempre. Grazie mille. Ok, quindi per concludere, grazie per averci ascoltato. È sempre un piacere stare qui a parlare, a filosofeggiare tra di noi e con voi, a parlare di morte e la fine dell'universo. E che dire? Io ero Marco. Sono ancora Jacopo. E io sono Luca. Quindi continuate a giocare. Ciao. Ciao.